Beh, innanzitutto io farei ancora un applauso per il bellissimo, bellissimo, veramente un gran lavoro. Grazie, speriamo di avere altre occasioni di presentarlo, sicuramente ce ne saranno, e grazie anche io al Cox, all'Archivio Moroni, alla Calusca. E grazie anche di ospitarci, perché questa sera noi, nel solco delle parole di Pierpaolo Pasolini, abbiamo cercato di portare il pensiero più anticonsumista che Pierpaolo ha avuto e l'ha avuto anche in modo feroce, proprio in una serata, e vi ringraziamo appunto di essere qui per quello, che è una delle più consumistiche dell'anno, se vogliamo così chiamarlo. Per cui abbiamo scelto il repertorio di canzoni tutte legate a Pasolini, ma direi per la gran parte scritte da lui, anche la musica in molti casi. L'idea del titolo, ovviamente per parafrasare Natale in casa Cupiello, è un po' il senso però di aprire le diverse stanze che Pasolini ha toccato, anche se poi è impossibile vista la vastità e la grande ampiezza del suo lavoro. Però sicuramente la parte più legata a quello che è questo, il suo pensiero critico, che appunto verso una società consumistica che stava distruggendo le radici, è quello che ci ha un po' guidato in queste canzoni. Iniziamo proprio con una delle sue prime, una canzone che è legata un po' a quello che era l'amore, diciamo, verso la madre, ma verso anche il Friuli. E infatti tra le sue poesie, quelle iniziali, quelle friulane, erano le poesie friulane, sono sempre state un ricordo e anche uno di quei riferimenti che ha avuto sempre presente nella sua vita, perché ne ha sempre ricordate. E la prima tra tutte è una canzone che ricorda proprio quella che lui chiamava l'acqua fresca del suo paese. A Noè, aga pi frescia che la fontana di aga del me paese, fontana drastic amor. La canzone l'ha cantata in modo sublime Sergio Endrigo, la ballata di Napoleone. Addio, addio Casarsa, vado via per il mondo, lascio il padre e la madre, vado via con Napoleone. Addio vecchio paese, addio giovani amici, Napoleone chiama la meglio gioventù. Quando si alza il sole al primo chiaro del giorno, Vincenzo col suo cavallo di nascosto se n'è partito. Correva lungo il Tagliamento e quando suona mezzodì, Vincenzo si presenta a Napoleone. Come furono passati 7 mesi, sono in mezzo al ghiaccio per conquistare la Russia, perduti e abbandonati. Come furono passati 7 giorni, sono in mezzo al gelo della grande Polonia, feriti e prigionieri. Spaventato il cavallo fuggiva per la neve e sopravviveva Vincenzo, che ferito delirava. Gridava: fermati cavallo, ferma, fermati ti prego, che ora che ti dia un mannello di fieno. Il cavallo si ferma e con l'occhio quieto e buono guarda il suo padrone che ormai muore di freddo. Vincenzo gli squarcia il ventre con la sua baionetta e dentro vi ripara la vita che gli avanza. Susanna con suo padre passa di lì sul carro e vede il giovincello nelle viscere del cavallo. Salviamolo, padre mio, questo povero soldato che muore nella Polonia, da tutti abbandonato. Chi siete, bel soldato, venuto da lontano? Sono Colussi Vincenzo, un giovane italiano, e voglio portarti via non appena sarò guarito, perché nel mio petto con gli occhi mi hai ferito. Nonno, che non vengo via perché mi sposo questa Pasqua. Nonno, che non vengo via perché a Pasqua sarò già morta. La domenica degli ulivi piangevano tutti e due, e l'uno e l'altro a piangere si vedevano di lontano. Il lunedì santo si vedono nell'orto e si danno un bacio come due colombi. Il giovedì santo, che nascono rose e fiori, scappano dalla Polonia per saziare l'amore. La domenica di Pasqua, che tutto il mondo canta, arrivano innamorati in terra di Francia. La domenica di Pasqua, che tutto il mondo canta, arrivano innamorati in terra di Francia, terra di Francia. Erano gli anni, grazie, della passione politica anche, e quindi anni dove comincia a frequentare anche le prime sezioni, le prime riunioni delle sezioni del Partito Comunista. In una sua poesia, Poeta delle Ceneri, successiva, ricordò quegli anni: come sono diventato marxista. Ebbene, andavo tra fiorellini candidi e azzurrini di primavera, quelli che nascono subito dopo le primule, e scrivevo sulle rive di piccoli stagni che laggiù, nel paese di mia madre, con uno di quegli intraducibili si dicono fonde, coi ragazzini figli dei contadini che facevano il loro bagno innocente. Questo avveniva nel 1943. Nel 45 fu tutt'altra cosa. Quei figli di contadini, divenuti un poco più grandi, si erano messi un giorno un fazzoletto rosso al collo ed erano marciati verso il centro mandamentale, con le sue porte e i suoi palazzetti veneziani. Fu così che io seppi che erano braccianti e che dunque c'erano i padroni. Fui dalla parte dei braccianti e lessi Marx. E per chi conosce solo il tuo colore, bandiera rossa, tu devi realmente esistere, perché esista chi era coperto di croste e coperto di piaghe. Il bracciante diventa mendicante, l'analfabeta una bufola o un cane. Chi conosceva appena il tuo colore, bandiera rossa, sta per non conoscerti più, neanche coi sensi. Tu che già vanti tante glorie borghesi e operaie, ridiventa straccio e il più povero ti sventoli. Avanti un po', all'arisco, bandiera ro, avanti po', alla risassa, bandiera rossa trionferà, a Avanti Bob, tuona il cannone, rivoluzione, rivoluzione. Avanti Bob, Bob, suona il cannone, rivoluzione vogliamo far. Avanti o popol, qui penso il taul, votai fitaul, votai fitaul. Avanti o popol, qui penso il taul, votai fitaul. E ciacare. Grazie, grazie. C'era, era un po' quello che dalle nostre parti cantavano Bandiera Rossa, la cantavano così. La versione un po' più così a ska era per significare che le parole ormai stanno perdendo, oggi come allora, ma già allora anche il significato purtroppo. E quindi popolo, non, l'avanti diventa avanti pop alla riscò, e quindi c'è un po' un senso di interruzione, che è quello che ebbe lui. Perché l'onorevole compagno Togliatti ha rivolto ai dirigenti dei settori culturali e stampa del partito l'invito ad andare cauti, con il considerare Pasolini un fiancheggiatore del partito e nel prenderne le difese. Togliatti non ritiene a suo giudizio personale Pasolini un grande scrittore, ed anzi il suo giudizio in proposito è piuttosto duro. Infine, egli giudica una cattiva propaganda per il PC, specialmente per la base, il considerare Pasolini un comunista. Dopo che l'attenzione del pubblico, più che sui romanzi dello scrittore, è polarizzata su talune scabrose situazioni in cui egli si è venuto a trovare, fino a provocare l'intervento del magistrato. Ne converrete, compagni, che tale comportamento getta discredito su tutto il partito. E il 26 ottobre del 1949 Pierpaolo Pasolini fu espulso dalla federazione di Pordenone del PC per indegnità morale. Senza aspettare l'esito dell'indagine delle forze dell'ordine su un presunto incontro che ebbe con alcuni ragazzi durante la sagra del Ramuscello. In una riunione del direttivo convocata in tutta fretta in un orario alle 18 di scarsa partecipazione, gli operai erano ancora tutti al lavoro. Non ci sono verbali, non ci sono testimonianze. Nei primi mesi del 1950 Pasolini si trasferisce a Roma con la madre. È come se Roma avesse inizio questa vecchia sera. In questi odori millenari cammino lungo il precipizio che il barbaro Tevere apre tra dormitori sordidi e spagnoleschi quartieri di terracotta dagli antichi splendori, ridotti a qualche baracca e cerea voluta di chiesa sconsacrata che ora è magazzino, tra vicoli neri che la polvere, la luna, vecchiezze ed empietà coprono di biancore. Su queste strade un mondo di sapore diverso, corpo estraneo e quindi definito di questo mondo. E io sono qui, una vita tutta muscoli, rovesciata come un guanto che si spiega in canzoni come queste, che una volta detestavo. Assolutamente nuda di sentimentalismi, un mondo dove non si conosce nessuno degli atteggiamenti cristiani. Il perdono, la mansuetudine, l'egoismo è necessario, anzi lecito. Prende forme lecite e la gioia è per poco e da poco. Drento un quartino di vino. Me so fatta un quartino, m'ha dato alla testa. Ammazza che toppa, Annina Roscetta Modesta, lassatemi qua. An vedi le foglie, an vedi la luna, an vedi le case, e chi l'ha mai viste con st'occhi me viede cantà. Lassame perde e vada un'altra, stasera cocco niente da fa. E poi so vecchia e c'ho 30 anni, il mondo ancora e l'ho da guardare. Mamma mia, che luci che vedo qua attorno, le vie del testaccio me parono come de giorno de un'altra città. An vedi le porte, an vedi i bari, an vedi la gente, an vedi le fronne che staria se fa sfarfallà. va via amoretto e fa la bella, stasera godo la libertà, spara il guzzetto e torna a casa, che mamma tua te sta aspettando. Me so presa la toppa e mo so felice, me possi cercarmi, me sento tornata a essere un fiore de verginità. Verginità, verginità, me sento tutta verginità. Che sarà, che sarà, che sarà, chi lo sa, me sento un fiore de verginità, me sento un fiore de verginità. Grazie. I fuochi delle puttane continuavano a splendere, malinconici e vivi. Parevano fuochi accesi da sentinelle, quegli antichi segnali che annunciavano fatti quotidiani, normali, della sera inoltrata. Il Lanzetta e il Ricetto si accostarono alla donna, che era piccola e grassa, come un rotolo di coppa, e stettero un po' a contrattare, e passando tra i fili di ferro di un reticolato si spinsero in dentro, tra mucchi fradici di canne. Non ci misero molto, appena che risortirono andarono calmi calmi a lavarsi un pochetto alla prima fontanella, in mezzo al piazzale, dove era il capolinea del tramvai. Ma che Teresa detta pazzia, fu Nazareno e Anna May, abito a via d'Ermandrione, alla baracca 23. C'ho 18 anni, e beh, è così, che vuoi da me? Me do alla vita da più di un anno, che altro ancora vuoi sapere? So disgraziata e c'ho un ragazzo che servo ognuno pare un re, e passo il grano in me, è così, che vuoi da me? Sì, ho vesto da gavezza ai piedi, ho vesto da testa ai piedi la raspa, i bighi, la capezza, il bugiardello d'oro, la raspa, i bighi, la capezza, il bugiardello d'oro. Me si è allumata che ero ciumaca, mentre che stavo a lavora. Lui è un danzone e me portava sulla gilera a danza, tutto pastoso e beh, è così, che ce vuoi fa? Per più di un anno tutta moina, io me te sposo di qua e di là. Poi è venuto per me il momento di ripiegarmi a cammina, a caragalla in me, e così che ce vuoi fa? Che te sei messo in testa, na fascio sta cantata de core, na faccio sta cantata de core, non ce sonni in famona, no, Io so de vita, sor commissario. Ormai so fatta, e calla. Un giorno o l'altro ce lo sapevo che me toccava una prova. Le mantellate, oh, e beh, per me tremano sta. Solo me rode se me chiudete, che si arritrova senza l'argent. Ma ogni modo, per qualche mese, con l'oro mio c'è camperà. Senza fa buffi, oh, a me, per me non trema, non sta, non sta. None, none, non glielo dico il nome. None, none, non lo dico il nome. Il nome suo, non ricordo. Il nome suo, non la ricordo. Si chiama amore. E basta. Era un mondo, grazie, era un mondo, il mondo dei ragazzi di vita. Un mondo anche fatto di spiritualità, a modo suo. Non è la fede questa cristiana borghese, nel senso di ogni privilegio, di ogni resa, di ogni servitù, che il peccato altro non è che reato di lesa certezza quotidiana, odiato per paura e aridità. E la Chiesa e lo spietato cuore dello Stato, turpi alunni di un Gesù Cristo corrotto, nei salotti vaticani, negli oratori, nelle anticamere dei ministri, nei pulpiti, forte di un popolo di servitori ubbidienti. Lì non c'è Gesù Cristo, quello vero. Lo puoi trovare al Mandrione, a Pietralata, tra i borghetti, tra le baracche tirate su le notte, tra le visceri dell'acquedotto, tra prostitute e zingari, terra e fango e tuguri, dove stanno a ruzzare sul fango lurido i ragazzini dei 2, dei 3, dei 4 anni, vestiti di straccio, a piedi nudi sempre. Uno di loro, l'altro giorno, quando siamo passati di là, appena ci vise, si mise la manina sporca in bocca e ci ha mandato un bacetto. Ecchi me, entra qua, tutta ignuda e fracica fino all'ossa te guazza. Intorno a me che c'è? Quattro muri zozzi, un tavolo, un bidet. E file me, se ci sei, Gesù Cristo. E guardami tutta sporca de fanga. Abbi pietà de me. Io che non so niente e te re dei re. Lavora senza mai rifiatà. Moro e l'anima non sa. Fileme, se ci sei, Gesù Cristo. E guardeme, tutta zozza, befanga. Abbi pietà de me. Io che non so niente e te re dei re. Fileme, sì ci sei, Gesù Cristo. Grazie, era Cristo al Mandrione. Noi nell'incontro che abbiamo fatto con Pasolini abbiamo avuto così l'idea, ma anche penso il sentimento di pensare che in quegli anni a Roma si potessero incontrare Pierpaolo Pasolini e Gianni Rodari. Erano là per motivi diversi, lui stava già facendo anche cinema, Pasolini invece scriveva libri, ma comunque scriveva anche su Paese Sera. E noi abbiamo pensato che comunque in modo o nell'altro la loro poetica, il loro mondo potesse incontrarsi sotto la descrizione di una luna, che tra l'altro il Pecetto in un pezzettino ha citato, la luna di Pasolini e la luna bambina di Gianni Rodari. Il vento dallo Ionio scuoteva paglia nera come nei sogni profetici, e la luna color delle feci coltivava terreni che mai l'estate amò. La tragica luna del pieno sole era là a coltivare quei 5.000, quei 20.000 ettari sparsi di case di fata. Gli occhi bruciati del figlio nella luna tra gli ettari tragici vedono ciò che non sa il lontano fratello. Nella loro terra di bestie familiari la luna è maestra d'anime che tu hai modernizzato inutilmente. Nella loro terra di razze diverse la luna coltiva una campagna che tu gli hai procurato inutilmente. E verrà lì dagli occhi azzurri uno dei tanti figli di figli, e scenderà da Algeri su navi a vela e a remi, e saranno con lui migliaia di uomini coi corpicini e gli occhi di poveri cani sulle barche varate nei regni della fame. E porteranno con sé i bambini e il pane e il formaggio nelle carte gialle del lunedì di Pasqua, e porteranno le nonne e gli asini sulle triremi rubate ai porti coloniali, e sbaccheranno a Crotone o a Palmi, a Milioni, vestiti di stracci asiatici e di camicie americane. E subito i calabresi e gli altri italici popoli diranno come malandrini ai malandrini: ecco i vecchi fratelli, coi figli e il pane e il formaggio, anime e angeli, topi e pidocchi, col germe della storia antica. Essi, nostra italica gente del nord e del sud, essi sempre umili, essi sempre deboli, essi sempre timidi, essi sempre colpevoli, essi sempre sudditi, essi sempre piccoli, essi che ebbero occhi solo per implorare, essi che vissero come banditi in fondo al mare, essi che si costruirono leggi fuori dalla legge, essi che si adattarono a un mondo sotto il mondo, essi che a loro volta furono emigranti, deponendo l'onestà delle religioni contadine, scenderanno per le strade per cacciare i loro fratelli d'oltremare, dimenticando l'onore della malavita, tradendo il candore dei popoli barbari. Essi cacceranno quei popoli di neri e di bianchi che sulle navi cercano ancora, tra flutti e marosi, i riflessi della stessa luna che non insegna più la gioia di vivere. E adesso a chi la diamo questa luna bambina che vola in un amen dal polo nord alla Cina? Se la diamo un generale, povera luna trottola, la vorrà sparare come una pallottola. Se la diamo un avaro, corre a metterla in banca e non la vediamo più, né rossa né bianca. Se la diamo un calciatore, la luna pallone vorrà una paga lunare, ogni calcio un trilione. Il meglio da fare è di darlo ai bambini che non si fanno pagare a giocare coi palloncini. Se ci salgono cavalcioni, chissà che festa, se la luna ha in fretta non gli gira la testa. anzi la sproneranno, la bella luna dondolo, lanciando grida di gioia, dall'uno all'altro mondo, dalla luna ipogrifo, reggendo le briglie, faranno il giro del cielo, a caccia di meraviglie. Il meglio da fare è di darlo ai bambini, che non si fan pagare a giocare coi palloncini. Se ci salgono a cavalcioni, chissà che festa, se la luna va in fretta, non gli gira la testa, anzi la sproneranno, la bella luna dondolo, lanciando grida di gioia, dall'una all'altro mondo, della luna ipogrifo, reggendo le briglie, faranno il giro del cielo, a caccia di meraviglie, della luna ipogrifo, reggendo le briglie, faranno il giro del cielo, a caccia di meraviglie. Sono cose da fare di notte, chiudere gli occhi, dormire, avere sogni da sognare e orecchie per non sentire. Ci sono cose da non fare mai, né di giorno, né di notte, né per mare, né per terra. Per esempio, la guerra. Pierpaolo Pasolini e Gianni Rodari. Un altro incontro che così idealmente abbiamo pensato di fare è quello con Vance Packard e Pierpaolo Pasolini. Vance Packard è autore di un libro del 1957 che si chiama Persuasori occulti e, pur da punti di vista paralleli, non uguali, non identici, che partivano da esperienze americane, da quello che era già stato il consumismo in America e i danni che aveva fatto. Lui diceva che in America un buon cittadino è solo il buon consumatore e che tutta la società americana era vittima delle tecniche di psicologia, di psichiatria, di persuasione di massa, pubblicitaria e non solo. Noi abbiamo unito in questo rap le parole di Pierpaolo e quelle di Vance Packard. Genocidio senza carneficine o fucilazioni di massa. Così a un certo punto il potere ha imposto a tutti di adeguarsi nel comportamento, nel vestire, nel modo di pettinarsi o di sorridere, nell'agire, nel parlare o di giudicare la realtà. È accaduto che a un certo punto il potere, per essere ancora più potere, ha avuto bisogno di un tipo diverso di suddito, il consumatore. Uomo terminale, lasciati plagiare, lasciati informare, lasciati comprare, lascia che tiriamo i tuoi fili, te la diamo noi la cultura chili, tu hai bisogno come un bambino, fatti trattare da cretino, non resistere, non ti opporre, ti comandiamo noi con l'antenna sulla torre, ti comandiamo noi con l'antenna sulla torre, ti comandiamo noi con l'antenna sulla torre! Questa gente può magari comprare un frigorifero, un condizionatore, se non ha il posto in casa lo metterà sulla veranda, può comprare una grossa automobile, il telefonino, 4 televisori, tutte le comodità, ma non salirà mai di un gradino nella scala sociale. sub sub sub sub sub sub sub sub sub sub sub sub mercato mercato mercato mercato mercato mercato mercato mercato compra compra anche se hai già dato compra compra anche se hai già dato compra compra anche se hai già dato sub consumo sub consumo compra tutto e tutto fumo compra tutto e tutto fumo devi convincerti devi comprare il tuo preciso dovere morale devi consumare se no perché devi lavorare se no perché devi lavorare se no perché devi lavorare. I nuovi valori del consumismo stanno sostituendo i valori culturali, le tradizioni popolari, particolaristiche della società italiana. Questo spaventoso regresso, questo sviluppo senza progresso, questa finta laicizzazione che ha fermato le conquiste progressiste della nostra società avviene in modo sottile, subdolo e complesso attraverso una sorta di persuasione occulta, senza bisogno di grandi discorsi ideologici che sarebbero ormai sconosciuti alle masse. Basta la televisione. Multinazionale subliminale, ipnosi metodo razionale. Tu hai bisogno di farti tentare, tu hai bisogno di farti fregare. Fatti tentare, dai, fatti tentare, fatti tentare, fatti tentare. Se sei fuori moda, se sei fuori moda, non puoi far finta che nulla ti accada. Puoi far finta che nulla ti accada. Cambia, cambia, cambia, cambia strada. Cambia, cambia, cambia, cambia strada. C'è qui lo spot che adesso ti inchioda. C'è qui lo spot che adesso ti inchioda. C'è qui lo spot che adesso ti inchioda. La futura occupazione di tutti i bambini, così come si presenta oggi, è quella di essere consumatori specializzati. E gli uomini? Gli uomini li obblighi a lavorare per comprare, comprare per lavorare, lavorare per comprare, comprare per lavorare, e ti dicono grazie. No, non potete dire che siamo cattivi, lo facciamo per voi, vi fa sentire vivi. No, non potete dire che siamo cattivi, lo facciamo per voi, vi fa sentire vivi. Siete plagiati, siete ipnotizzati. Siete plagiati, siete ipnotizzati. No, diciamo solo che siete guidati. No, diciamo solo che siete guidati. Teleguidati, telecomandati. Teleguidati, telecomandati. Teleguidati, telecomandati dalla videocrazia. La nuova pulizia. Dalla videocrazia, che è la pulizia delle menti indipendenti. E cari telespettatori, siamo i vostri dominatori, siamo i vostri persuasori, neanche occulti, poveri stolti, neanche occulti, poveri stolti. Cari telespettatori, siamo i vostri dottori. Vi curiamo la coscienza, vi diamo la coscienza, vi diamo la coscienza, vi curiamo la coscienza, vi curiamo la coscienza, vi diamo la coscienza. Questo consumismo edonista sta creando nella gente una forma di atroce afasia, di brutale assenza di capacità critica, una paurosa passività. Ricordo che queste erano proprio le condizioni tipiche dove sono nate le dittature, le SS. Vedo così estendersi nelle nostre città l'ombra orrenda della croce uncinata, e nessun centralismo fascista è riuscito a fare ciò che ha fatto il centralismo della civiltà dei consumi. Del resto si può perfettamente concepire un mondo dominato da una dittatura invisibile, dove tuttavia vengano mantenute le forme esteriori del governo democratico. Teleguidati, telecomandati, teleguidati, telecomandati, teleguidati, telecomandati, tele tele tele tele tele tele tele tele tele teleguidati, telecomandati, teleguidati, telecomandati, teleguidati, telecomandati, teleguidati, telecomandati, a fare delle scelte consapevoli, nuove, dettate da una ricerca accurata dei bisogni, delle esigenze basilari, fondamentali nel contesto di quella che secondo noi, secondo tutti, è la nostra civile, moderna società del progresso. Amen. Grazie, grazie. Van Spackard ne sarebbe contento, Pasolini non lo so. Adesso lasciamo spazio a una poesia di un nostro amico che è venuto a trovarci, particolarmente legato al mondo di Pasolini. Questo è proprio a lui dedicato. Marco Villani. Cinque anni fa stavo leggendo e rileggendo poesie in forma di rosa, avevo letto anche poco prima Petrolio, e a un certo punto di getto ho scritto questo testo a Pierpaolo. Vidi in sogno la tua figura, di tutta la vita assetata, seduta con saggezza irriverente davanti a un bar di borgata. tu che fosti uomo colmo di scienze e passioni umane, attiravi la rabbia dei detrattori e il disprezzo per le tue parole mai vane. Scrittore, regista, critico, saggista, autore teatrale e poeta, modellavi le tue opere con il sangue della strada e la polvere del mondo, come uno scultore con la creta. Mi avvicinai in punta di piedi al tuo spazio, cercai di fissare la tua anima, respirandone la gioia intellettuale e l'umano strazio. Un coacervo di bruti ti aveva appena ricoperto di insulti e disputi. Allungai quindi un'amorosa mano, asciugando la bava ignorante dalla tua camicia e dalla fronte arrossata. Unii gli sforzi con altri umani, sollevammo la tua mente assassinata da brutale gente accecata, per mostrarla al vento della storia affinché trasportasse ovunque il tuo sogno e la tua memoria. Marco Villani, grazie. Grazie Marco. L'ansia del consumismo è un'ansia di obbedienza a un ordine non pronunciato. Ognuno sente l'ansia degradante di essere uguale agli altri nel consumare, nel ricercare il benessere, nell'essere falsamente felice, fintamente libero. I ragazzi del popolo sono tristi perché hanno preso coscienza della propria inferiorità sociale. La civiltà capitalistica, il consumismo li ha illusi. Prima ha distrutto i loro modelli culturali per poi sostituirli con altri modelli irraggiungibili nelle loro vite di tutti i giorni, creando frustrazione e una conseguente aggressività verso gli altri e anche verso se stessi. Sono inquieti, chiusi in se stessi, presuntuosi e violenti, avviati sempre più verso una forma irreversibile di disumanità. I ragazzi giù nel campo non si curano del tempo, ma si buttano dentro i fiumi per pescare la croce premio. I ragazzi giù nel campo dalla caccia ad un pazzo, poi lo strozzano con le mani e lo bruciano in riva al mare. Vieni figlia della luna, della stella mattutina, e regala a questi ragazzi le carezze del gran cielo. Vieni figlia della luna, della stella mattutina, e regala a questi ragazzi le carezze del gran cielo. I ragazzi giù nel campo, dalla caccia ai borghesi, tagliano a pezzi le teste dei nemici e dei fedeli. I ragazzi giù nel campo colgono rami di rosmarino e camuffano buche e pozzi per acciuffare le ragazze. Vieni figlia della luna, della stella mattutina, e regala a questi ragazzi le carezze del gran cielo. Vieni figlia della luna, della stella mattutina, e regala a questi ragazzi le carezze del gran cielo. I ragazzi giù nel campo danno la caccia ad un ricco, gli fan togliere i denti d'oro e lo portano al mercato. I ragazzi giù nel campo danno la caccia ad un ricco, gli fan togliere i denti d'oro e lo portano al mercato. Vieni figlia della luna, della stella mattutina, e regala a questi ragazzi le carezze del gran cielo. Vieni figlia della luna, della stella mattutina, e regala a questi ragazzi le carezze del gran cielo. I ragazzi giù nel campo non posseggono memoria, perciò vendono gli antenati e poi son presi da tristezza. I ragazzi giù nel campo non posseggono più memoria, perciò vendono gli antenati, poi son presi da tristezza. Grazie. Riceviamo inconsciamente l'ordine di essere felici, a cui si deve obbedire. In questi giorni, questa mi ritorna in mente, questo che ha detto in un'intervista Pierpaolo Pasolini, che diceva: per non sentirsi diverso bisogna obbedire. E allora giocattoli felici ci vogliono. Ci vogliono tutti amici, giocattoli felici, è uguale, tutto è in una melassa uguale. Mai la diversità è stata una colpa così spaventosa come in questo periodo di tolleranza. E anche la libertà sessuale oggi è una convenzione, un obbligo, un dovere, un'ansia sociale, una irrinunciabile caratteristica della qualità di vita del consumatore. Rimpiango il mondo contadino, preindustriale. Gli uomini di quel mondo erano consumatori di beni estremamente necessari. Ed era per questo forse che rendeva estremamente necessaria la loro povera e anche precaria vita. Mentre è chiaro che i beni superflui rendono superflua anche la vita. Pietà, pietà, voi mi volete morta e sepolta, senza voce, senza gesti, senza viso, senza vita, che non torni, voi dite, mai più l'abbazia che essa fu qui tra noi. Pietà, pietà, gente felice, voi mi sperate, impiccata, annegata, incendiata, maciullata, e che sta a fare, voi dite, se fa solo rabbia e lo fa qui tra noi. Pietà, pietà, gente per bene, voi mi temete, nel mio amore, nel mio vizio, nel mio ardore, nel mio odio, perché vive, voi dite, qua giù, peccatrice tabù, qui tra noi. Pietà, pietà, pietà, gente normale, mi condannate a tremare, ad odiare, a celarmi, a sparire. Chi è diverso, voi dite, non può rimanerne anche un po' qui fra noi. Pietà, pietà, gente al potere, mi minacciate con l'arresto, con la gogna, con la cella, con il rogo. La passione, voi dite, non dà che fastidio e ansietà qui fra noi. Pietà, pietà, pareva eterno il mio destino di parlare, di cantare, di godere, di peccare. Ma sì, per me è finita, state tranquilli, entro nell'ombra, vi lascio il mondo. Grazie, siamo quasi alla fine, questa era la ballata del suicidio, ma non volevo finire con la ballata del suicidio. Per cui volevo finire con un omaggio che Elsa Morante fece dopo la morte di Pierpaolo. Loro, i vecchi, ti compativano dietro alle spalle, pure se ti chiedevano la firma per i loro proclami. E loro, i giovani, ti sputavano in faccia, perché i fascisti come i loro babbi, ma questi sono fascisti più di loro, ti sputavano in faccia. Ma ovviamente tutti, anche loro, ti chiedevano la propaganda per i loro volantini e i soldi per le loro squadrette di calcio. E tu? Tu non negavi mai. Sempre ti davi e ti sdavi. Loro pigliavano e poi dicevano, sì, lui dà, ma per amore di se stesso. Evviva! Evviva chi ama se stesso e gli altri ama come se stesso. Loro odiano gli altri come se stessi e magari si credono di fondare su questo una rivoluzione. Loro ti rinfacciavano la tua diversità, intendendo con questa la tua omosessualità. Difatti loro usano il corpo delle femmine come gli pare, è carne d'uso, ma il corpo dei maschi, quello è sì, esige rispetto e moralità. Ma in verità, In verità, quello per cui ti credevi un diverso non era la tua diversità. La tua vera diversità era la tua poesia. Loro, sì, loro sono contro natura e tu sei natura, sei poesia, cioè natura, e loro sono contro di te. Tu bramavi di essere uguale agli altri, ma invece non lo eri. Loro ti insegnarono a non splendere, ma tu splendi. La tua diversità ti ha reso stupendo. Tu bramavi di essere uguale agli altri, ma eri diverso. Perché? Perché eri un poeta. E questo loro non ti perdonano. Loro odiano i poeti, perché sono il sale della terra e loro vogliono la terra insipida come loro. C'è forse vita sulla terra, c'è forse vita nella guerra. C'è forse vita sulla terra, c'è forse vita nella guerra. È una gioia essere vivi. È una gioia essere vivi. È bello essere furtivi. È bello sopravvivere. È dolce saper vivere. È bello essere matti. Non tenere fede ai patti. Fare tutto tutti nudi. E mangiare sassi crudi. C'è forse vita sulla terra, c'è forse vita nella guerra, c'è forse vita sulla terra, c'è forse vita nella guerra. Prendi la libertà, la morte non ti avrà. Prendi quello che vuoi, respira a fondo e poi. È bello fare l'amore, è bello schiantare il cuore. È dolce essere contenti finché non te ne penti. È dolce e bella sulla terra, c'è forse vita nella guerra. C'è forse vita sulla terra, c'è forse vita nella guerra. È una gioia essere tristi, fare il male senza essere visti. È bello essere pigri e mordere come tigri. È bello essere cattivi e nel vizio molto attivi. È bello morire per uno scopo, è bello vincere a gatto e topo. E c'è forse vita sulla terra, c'è forse vita nella guerra. C'è forse vita nella terra, c'è forse vita nella guerra, c'è forse vita sulla terra, c'è forse vita nella guerra, c'è forse vita sulla terra, c'è forse vita nella guerra. È una gioia essere tristi, fare il male senza essere visti. È bello essere pigri e mordere come tigri. È bello fare l'amore, è bello schiantare il cuore. È dolce essere contenti finché non te ne penti. C'è forse vita sulla terra, c'è forse vita nella guerra. C'è forse vita sulla terra, c'è forse vita nella guerra, c'è forse vita sulla terra, c'è forse vita nella guerra, c'è forse vita sulla terra, c'è forse vita nella guerra. Gianni Rota al flauto, alle percussioni e alla chitarra, Davide Burati al contrabbasso, Marcello Turcato, sax tenore, sax soprano e chitarra, Piero Carcano, canto sociali. Grazie. Grazie. Piero Carcano, voce.